Siamo con Gabriele Ciampichetti, direttore del Biografilm Park a Bologna, Parco del Cavaticcio, dal 1 al 22 giugno. Gabriele, ben trovato. Ciao, grazie. Cos'è questo Biografilm Park? Il Biografilm Park è la parte off del Festival del Cinema di Bologna, che è appunto il Biografilm Festival. Noi cerchiamo di accogliere in questo parco, che è il Parco del Cavaticcio, tutti gli spettatori del cinema dal pomeriggio fino a notte. E lo facciamo con numerosi concerti, con un concerto al giorno per i 22 giorni in cui saremo all'interno di questo parco. E diciamo, abbiamo curato la programmazione per allietare queste serate agli spettatori del Festival del Cinema in maniera molto trasversale, così da accontentare tutti i palati. Tant'è che trattiamo vari generi, ad esempio dal rock classico fino all'hip hop, dal jazz al soul, fino al cantautorato classico, ma anche quello più moderno, diciamo, più giovanile, con molte influenze trasversali, fino addirittura in una serata trattiamo anche il liscio, che è per l'Emilia Romagna, diciamo, la musica più popolare. Sì. Lo facciamo poi ospitando e attirando a Bologna il meglio della musica italiana, nostrana, ma anche molti artisti internazionali, che abbiamo cercato di coinvogliare proprio nelle giornate di apertura del festival. Tant'è che giovedì 14 giugno avremo l'onore di avere sul nostro palco i Giant Sand, la band americana di Tucson. Arriva a Bologna per reinterpretare completamente il primo disco dell'83, che si intitola Valley of Rain. Il giorno seguente un altro internazionale molto rinomato, loro sono i Lalipuna. Diciamo, conosciuta al grande pubblico la band soprattutto per la colonna sonora delle conseguenze dell'amore di Sorrentino, arrivano a Bologna per presentare Two Windows, il loro ultimo disco edito dalla molto rinomata etichetta tedesca More Music. Il giorno seguente, sabato 16 giugno, abbiamo un gradito ritorno sul palco del Cavaticcio, perché torna a trovarci Bombino, l'artista nigerino di etnia Tuareg. Arriva a Bologna per presentare Teheran, che è l'ultimo disco uscito proprio pochi giorni fa. Diciamo, per noi un grandissimo privilegio averlo sul nostro palco, perché ha già partecipato a tutti i più grandi festival mondiali di World Music. Noi ce l'abbiamo per un'unica data italiana, e non vediamo l'ora di poterlo ospitare sul nostro palco. Oltre a questi numerosi artisti stranieri, ne abbiamo anche tantissimi italiani, diciamo, alcuni che da anni si cimentano sui palchi di tutta la nostra penisola, e altri invece che si sono fatti conoscere soprattutto negli ultimi mesi, soprattutto grazie anche al nuovo modo di fruire la musica, che può essere Spotify o YouTube, diciamo, che ha permesso alle nuove generazioni musicali di arrivare più velocemente agli ascolti dei dischi. Sicuramente uno tra tutti è giovedì 7, Willy Peyote, l'artista torinese, arriva a Bologna per presentare La Sindrome di Tourette, ultimo disco, che ha riscosso sia dal punto di vista della critica che di pubblico davvero grandissimi successi, tant'è che era anche sul palco del 1º maggio in Piazza San Giovanni a Roma. E venerdì 1º giugno avremo l'onore di ospitare i Bud Spencer Blues Explosion, anche loro hanno sul palco del 1º maggio in un ottimo slot. Arrivano a Bologna, diciamo, con la loro potenza blues. Hanno fatto davvero un ottimo ultimo disco, per noi era assolutamente doveroso averli all'interno della nostra programmazione. Così potremmo citare anche Colapesce, un artista che si muove su altre sonorità, meno rock, più, diciamo, cantautorato classico, come Andrea, Lazzaro De Simone e Bianco, che si muovono sulle stesse sonorità, che saranno lunedì 4 giugno, anche Francesco De Leo, ma anche Galetti, Cimini, E poi una delle band e rivelazioni più importanti del nostro palinsesto sono i Coma Cause, il duo milanese arriva a Bologna per presentare Inverno Ticinese, è il loro primo EP che contiene giusto una manciata di canzoni che sono davvero, hanno fatto immediatamente presa sul pubblico e hanno fatto, diciamo, molto parlare di sé. Gabriele, di massima, ogni singola giornata da che ora parte e quante esibizioni prevede? Allora, facciamo un'esibizione al giorno e accogliamo il nostro pubblico con DJ set di accoglienza davvero molto gradevole, poi facciamo il concerto che inizia in genere alle 9:30 tutte le sere per finire massimo alle 11:15 e dopo il concerto riprendiamo con il DJ set, diciamo, per proseguire fino a tarda notte. Benissimo, per seguire il programma ci dai tutte le indicazioni web? Sì, si può seguire direttamente il sito del Biography Film Festival oppure la pagina Facebook del Biography Film Park o la pagina Facebook del Locomotive Club. Benissimo, allora ricordiamo il Biography Film Park a Bologna, Parco del Cavaticcio, dal 1 al 22 di giugno. Un ringraziamento e un saluto al direttore artistico Gabriele Ciampichetti. Gabriele, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, a presto, ci vediamo in queste notti a Bologna.